Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: la fiducia degli americani in calo, dei consumatori più delle attese, la fiducia degli italiani in calo anch'essa, misurata dall'indice trimestrale della Confesercenti, e in questo caso si lega anche all'instabilità politica. Non è però la prima volta che notiamo una fiducia degli italiani legata all'incertezza politica. Questa volta il dato comunque è una conferma. La fiducia dei mercati verso l'Irlanda, altro tema di questa giornata economico-finanziaria, aumenta infatti il cosiddetto spread, cioè la differenza quanto costa al governo irlandese trovare finanziatori per il suo debito, e aumenta anche il rendimento dei tassi spagnoli, collocati oggi infatti 3 miliardi di bond, di obbligazioni spagnole sul mercato. Ma dicevo, l'Irlanda continua a essere il vero timore in questo momento. L'euro sui timori dell'Irlanda oggi ha perso anche, è sceso da 1,35,4 a 1,34,4 molto velocemente, poi si è ripreso, adesso è 1,35,4, ma soprattutto il mercato si chiede quanto potrà, o meglio, quante garanzie può dare il governo irlandese di riuscire a salvare questo pozzo senza fondo che si chiama Anglo-Irish Bank. E insomma, oltre a Standard & Poor's, che oggi ha stimato che il salvataggio di Anglo-Irish Bank potrebbe costare più dei 35 miliardi già ipotizzati dal governo. 35 miliardi per un paese come l'Irlanda, fate le debite proporzioni, come un salvataggio che da noi in proporzione può arrivare a costare 150-160 miliardi di euro, una cifra colossale, però potrebbe costare di più, tant'è che c'è un piano B del governo. E anche l'altra agenzia di rating Fitch ha minacciato oggi di abbassare il voto sul debito all'Irlanda se non chiarirà come e quanto costerà il salvataggio finale della Anglo-Irish Bank. Nel frattempo altre notizie riguardano i consumatori francesi. I consumi sono in forte calo in Francia nel mese di agosto, meno 1,6%, e quindi tensioni a livello internazionale. Per fortuna oggi l'Italia, che ha collocato comunque i BTP, quindi obbligazioni a 10 anni, ha visto calare il rendimento di questi BTP, che vuol dire che per l'Italia non è un problema, o anzi si può offrire un po' di meno come rendimento per trovare finanziatori. Questa è una notizia molto importante, perché questa mattina aveva gufato l'agenzia Bloomberg dicendo, un'agenzia importante, economico-finanziaria, ci mancherebbe, dicendo attenzione, i costi che pagherà l'Italia per finanziare il suo debito stanno salendo come conseguenza e a causa dell'instabilità del governo Berlusconi. In realtà poi c'è stata l'asta e non è stato vero, o meglio, i rendimenti dei BTP a 10 anni sono calati dello 0,3%, e quindi rispolveriamo il nostro volatile, non dico preferito, ma insomma più frequente, che oggi va alla Bloomberg. Grazie per la gufata. E allora partiamo con le notizie in breve, visto che appunto per fortuna è stata solo una gufata, ma non si è verificata. I mercati come stanno reagendo? Mezzo punto percentuale di calo Milano, meno 0,3 Parigi e anche Francoforte, meno 0,2 Londra. Bene da noi Exor più 1,6, Azimut più 1,5, Ubibanca più 1% come Finmeccanica. Male Buzzi Unice meno 2,80, Fondiaria Sai meno 1,80, Intesa San Paolo meno 1,5 come Pirelli. Media 7-1,4 come ST Microelectronics, l'1,2 lo perde Unicredit, l'1% lo perde Fiat. Di tutto questo parleremo più avanti, anche perché abbiamo un approfondimento dedicato proprio ai mercati, ai rendimenti e alle decisioni che sta per prendere Bruxelles. Vorrebbe arrivare a delle sanzioni molto dure sui paesi che hanno un alto debito, contrari Italia e Francia. La Merkel, ossia la Germania, spinge invece per questo. E affronteremo il tema tra pochi minuti. E ancora, per quello che riguarda invece il dato internazionale, vale la pena ricordare che oggi la Gran Bretagna ha diffuso il dato sul PIL. Ebbene, il PIL inglese nei secondi tre mesi ha segnato un rialzo che non si vedeva da 9 anni, quanto intensità, l'1,2%. Ma dicevamo della fiducia e di questa cosa un po' strana che oggi è circolata prima dell'asta delle obbligazioni italiane, che per fortuna si è rivelata infondata. Fiducia, quello che è certo è che la fiducia è in calo e soprattutto resta molto bassa nelle famiglie, e soprattutto, da quello che abbiamo capito, crolla la fiducia nel governo. Questo riguarda invece i consumatori e i cittadini italiani. Il dato è emerso oggi nel rapporto trimestrale commissionato come sempre dalla Confesercenti. Siamo in collegamento con il presidente Marco Venturi. Buonasera presidente. Buonasera. L'avete realizzato con la IPSO di Renato Mannheimer, se ben ricordo. Esattamente. Abbiamo sintetizzato il vostro rapporto e anche questo così, ricordando questo cotè della Bloomberg, massimo rispetto per l'agenzia di stampa, però insomma far uscire certe informazioni prima di un'asta dicendo che i rendimenti sarebbero saliti perché il mercato va a punire le difficoltà del governo Berlusconi, e poi si vede che i rendimenti invece scendono, non è il massimo, non è bello, non è elegante nei confronti di un paese, mettiamola così. Comunque, la scheda con i timori delle famiglie italiane. È preoccupante lo scenario che emerge dall'indagine condotta da Confesercenti sulla fiducia degli italiani. O sarebbe meglio dire sulla non fiducia, visto che ormai non ci si fida più di nessuno o quasi. In primo luogo, del governo, che ha visto scendere parecchio l'apprezzamento per il suo operato. Un anno fa era infatti giudicato certamente positivo dal 31% del campione. Oggi solo dal 23%, con una perdita di 8 punti percentuali. Il malessere verso la politica è comunque a tutto tondo. Il gradimento per l'opposizione è sceso all'11% dal picco del 23% dello scorso febbraio, e quello nei confronti di sindaci e governatori di regioni è diminuito in un anno dal 26 al 22%. Non si salvano i sindacati, che dopo il top di consensi al 24% raggiunto in febbraio, sono arretrati fino al 15%, e neppure le associazioni di PMI, ora al 20%, in calo di 9 punti. Stabili in fondo alla classifica della fiducia le banche, il cui operato è pienamente apprezzato appena dal 9% degli intervistati. Ma esiste la possibilità che questa situazione di sfiducia e instabilità finisca per influenzare anche l'atteggiamento dei mercati nei nostri confronti? Secondo l'agenzia di stampa Bloomberg, starebbe già accadendo, come dimostrerebbe il differenziale di rendimento tra un titolo di Stato tedesco e uno italiano, il cosiddetto spread, che oscilla oggi intorno ai 165 punti, ossia non lontano dai livelli dello scorso giugno, in piena crisi greca. Un'interpretazione probabilmente un po' forzata, come dimostra da un lato il buon esito dell'asta odierna di BTP, con rendimenti in calo e richieste superiori all'offerta, e dall'altro l'andamento degli spread di Portogallo, Spagna, Grecia e Irlanda, a loro volta in aumento. In pratica, più che un'attenzione specifica al caso italiano, sembra esserci un generale aumento della diffidenza dei mercati verso i paesi con conti pubblici meno in ordine e crescita economica più lenta. E di questo parleremo anche più avanti collegandoci con Bruxelles. Però, presidente Venturi, allora voi questa indagine la fate trimestralmente. Insomma, tutto è in calo rispetto a febbraio, questo lo possiamo dire, insomma, la fiducia nel governo, la fiducia nell'opposizione, addirittura anche la fiducia nei sindaci e nei presidenti di regione, che sembrava resta più elevata, ma insomma sembrava una volta inscalfibile. Presidente. Beh, certamente la situazione non è rosea, le aspettative non sono buone e quindi c'è una fortissima preoccupazione da parte dei nostri cittadini. D'altronde, se si vede la politica che litiga, che si occupa troppo di se stessa e meno di quelli che sono i gravi problemi che stiamo vivendo, è chiaro che poi scoppia, diciamo, una situazione di sfiducia generalizzata, come emerge chiaramente dai dati che lei citava. Quindi c'è bisogno di dare una svolta, diciamo, a questa situazione se vogliamo ridare fiducia, perché la fiducia non è solo un fatto psicologico individuale, la fiducia è fondamentale per i mercati, per la crescita dei consumi, per un atteggiamento positivo, ma la fiducia si ottiene creando lavoro, creando stabilità, creando prospettive, ecco, quindi bisogna che cominciamo a ragionare di queste cose, non dei problemi che hanno i partiti, la politica e così via. Ecco, su questo, visto che questo sondaggio voi lo fate con Renato Mannheimer ogni tre mesi, qual è il movimento, quindi non tanto il dato secco, ma il movimento che più l'ha sorpresa nelle famiglie italiane dell'ultima rilevazione? Ma guardi, io credo che siano intanto sorprendenti tutti i dati che abbiamo dato. Ma quello che vorrei mettere in evidenza è che c'è una ripresa, diciamo, rispetto alla situazione precedente, ma parliamo sempre del 90%, dell'84%. Insomma, c'è un clima di sfiducia che non riprende perché il peggio della crisi non è passata, come rispondono alla domanda gli elettori, e quindi sanno che c'è ancora un anno sicuramente di purgatorio e quindi di difficoltà per loro e per le loro famiglie. Quindi come devono rispondere di fronte a una situazione di questa natura dove non si vedono prospettive? Ecco, però vorrei capire ed essere chiaro prima di concludere con lei. Questa sfiducia è dovuta al fatto che, come anche noi abbiamo raccontato, la crisi, la parte diciamo drammatica è alle spalle, ma l'uscita e il recupero dei livelli del 2007 è lento, molto lento nel caso dell'Italia, oppure è intervenuta anche questa difficoltà della politica e poi nel caso specifico del governo, visto che lui che deve governare a trovare soluzioni. Noi anche oggi lanceremo il nostro sondaggio su chi volete come ministro dello sviluppo economico, ma insomma vorrei capire se è più lo scenario internazionale con Barack Obama, il presidente della Banca Centrale Europea, tutti che ripetono attenzione, si sta uscendo ma lentamente da questa crisi, oppure è intervenuta una sensazione che in questo momento la politica, ripeto nel caso specifico il governo, non potrà dare risposte a breve. Ma che ci sia un clima di sfiducia più generale da tanto tempo è in dubbio, quindi non è solo un fatto legato all'immediato, al contingente, ma non c'è dubbio che anche il contingente dà una spallata ulteriore, perché rispetto a una situazione già di per sé negativa che veniva prospettata nelle precedenti ricerche, questa volta le cose vanno peggio, cioè nel senso che mentre da una parte si dice il peggio della crisi è passato e si riduce il numero di chi non era d'accordo e quindi diceva che la crisi era in pieno svolgimento, ma questa riduzione passa dall'88 all'80%, quindi ci sono 8 italiani ancora su 10 che ritengono che il peggio della crisi è ancora in essere. Questo è non si è riusciti a far passare un messaggio positivo perché non ci sono stati fatti positivi, perché non bastano le parole, ci vogliono i fatti. I nostri concittadini vogliono vedere lavoro, vogliono vedere sviluppo, vogliono vedere tranquillità, stabilità. Ecco, questi fattori non ci sono, come si fa a chiedergli poi un giudizio positivo? Vabbè. Allora, grazie per ora al presidente della Confesercenti. E mi riferisco chiaramente al presidente Venturi, Marco Venturi. Chissà come potrà andare la fiducia degli italiani se dovesse passare quello che è il progetto soprattutto tedesco di riforma di regole più stringenti sul debito e sui deficit dei paesi che aderiscono all'Unione Europea, progetto che tra l'altro verrà discusso domani, perché verrà presentato a Bruxelles dalla Commissione Europea un pacchetto di riforme delle regole europee per vigilare sulle finanze pubbliche nazionali. Eh sì, perché vedo molti messaggi al 349-238-6666, alcuni danno anche colpa ai media che spaventano. A me sembra che i media in generale in questo paese non spaventino, anzi. tendono delle volte anche a far da gran cassa a messaggi rassicuranti, delle volte troppo rassicuranti, però dicevo, chissà che cosa potranno pensare i nostri concittadini sul fatto che l'Unione Europea, o meglio la Germania, preme perché vengano introdotte regole molto molto dure per i paesi con alto debito e bassa crescita, tra cui l'Italia. Noi abbiamo il 116% del debito sul PIL. Se passasse quello che vuole la Germania, saremmo obbligati ogni anno a ridurre una bella fetta di debito. Si calcola che nei prossimi 3 anni dovremmo ridurre il debito di 130 miliardi, cioè quasi 40 miliardi all'anno, anzi un po' di più. La Francia, che ha un debito che viaggia all'83%, dovrebbe ridurre circa di 70 miliardi in 3 anni il debito. Ovvio che quindi Italia, Francia, ma anche Belgio, Slovacchia vogliono una riforma più morbida. Chi sostiene la linea del rigore? Beh, la Germania, l'Olanda, la Svezia, la Finlandia e il presidente della Commissione Europea Barroso. Ci colleghiamo con Bruxelles, dove c'è il corrispondente dell'agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore, Antonio Poglio Salimbeni. Buonasera Antonio. Buonasera a voi. Allora, quanto dura lo scontro e quello e quale potrebbe essere l'esito? Perché insomma Barroso oggi ha dato ragione a Angela Merkel, ai tedeschi, ha detto che è necessaria una stretta sul debito dei governi, e poi ha detto che anche le banche devono restituire quanto hanno ricevuto, ma insomma abbiamo visto Trichet ieri, presidente della Banca Centrale Europea, dire beh, aspettate con le tasse sulle banche perché prima devono rimettersi in sesto, però potremmo dare delle sanzioni ai paesi con bassa competitività, tra cui l'Italia. Oggi Barroso, presidente della Commissione Europea, e Angela Merkel tornare a dire bisogna colpire, sanzionare, chiedere rientri forti ai paesi con alto debito, tra cui l'Italia, e allora la partita come va? Ancora non è chiaro quale sarà l'esito, ma è certa una cosa, che non è soltanto naturalmente la Germania che chiede delle restrizioni maggiori nei confronti dei paesi ad alto debito e comunque sempre a quelli che hanno un deficit pubblico molto elevato, sicuramente superiore al 3%, ma è, diciamo che questo è un po' il conto della crisi greca, nel senso che la Germania ha accettato di pagare, di garantire finanziariamente per il salvataggio della Grecia, con l'impegno che poi le maglie della vigilanza sui bilanci pubblici sarebbe diventata molto ma molto più stretta. Su questo sono in realtà tutti d'accordo, naturalmente il diavolo sta nei dettagli e oggi si discuterà, diciamo formalmente da domani, dei dettagli. Uno di questi dettagli riguarda il debito pubblico. Un paese come l'Italia, che ha un debito appunto su un ben superiore al 100%, rischia di entrare in una procedura europea e anche di pagare, di dover essere sottoposto a delle sanzioni economiche. Questo dipenderà da un fatto molto semplice: se sarà in grado di ridurlo in modo relativamente consistente nei 3 anni precedenti. Per la prima volta in realtà si applica quanto stabilito dagli stessi governi parecchi anni fa col trattato di Maastricht e poi con i trattati europei successivi, confermato dai trattati europei successivi, che il debito, quando un paese ha un debito pubblico superiore al 60% del prodotto lordo, deve dimostrare di saperlo ridurre a un ritmo soddisfacente. Per la prima volta questa parolina magica, ritmo soddisfacente, ha un numero che è un ventesimo della differenza tra il 60% del PIL e il PIL effettivo, nel caso dell'Italia circa 56 punti percentuali in rapporto al prodotto lordo. Ecco, e che vuol dire appunto 130 miliardi in 3 anni? Ora io dico una cosa, per carità, in questo programma chi lo ascolta lo sa, abbiamo sempre fatto del rigore sui conti pubblici un caposaldo, ci mancherebbe andare a imbarcare altro deficit e altro debito da consegnare alle future generazioni, già abbiamo fatto abbastanza danni dagli anni 80 in poi. Però tu citavi Maastricht, ora Maastricht è stata scritta in un'altra epoca, in un'altra era geologica. Qui siamo di fronte alla più grande crisi dal 29, con governi che hanno dovuto imbarcare deficit per salvare gli stati, per salvare, scusami, le banche in alcuni casi, e comunque tener botta a un crollo del PIL generato dal blocco delle attività finanziarie e poi economiche con disoccupazione. Ora chiedere che improvvisamente si applichi Maastricht, mai applicato in quella formula prima, quando si stava bene, mi sembra un po' così. Un momento. Sparare sulla Croce Rossa. Detto ciò, come a ci chiedono. Onestà del vero. Dimmi. A onestà del vero, bisogna dire una cosa. In condizioni cicliche, in condizioni economiche tipo quella che stiamo vivendo adesso, quella che abbiamo vissuto negli ultimi 2 anni e mezzo, questo patto di stabilità riformato più duro si applicherebbe in una misura molto più morbida, perché ci sono i cosiddetti fattori rilevanti, fattori eccezionali. Se c'è una recessione in corso, non è possibile ridurre il debito e non è possibile ridurre il deficit, entrambi schizzano verso l'alto. Qui si tratta di una riforma delle regole in condizioni economiche normali. Punto numero uno. Punto numero due, bisogna tenere a mente che sarà tanto più facile o meno duro, oneroso ridurre il debito e il deficit quanto più l'economia crescerà. Quindi tutti gli sforzi i governi devono farli da qui per il futuro per aumentare la crescita potenziale. Questo è il punto vero. Sì, nessuno chiede in tempi di recessione, qui nessuno si sogna di chiedere in tempi di recessione si stringa ancora di più la corda, sarebbero dei passi, ma infatti di questo non si sta discutendo. Sì, chiara la tua precisazione, si parla in un'ottica di ripresa economica, però ultima domanda che ci girano, devo dire, gli ascoltatori, una precisazione. Venturi prima ha detto che anche se chi non ha fiducia passa da 88 a 80%, è comunque 8 su 10 quelli, sono comunque 8 su 10 quelli che non hanno fiducia, lo dico a un ascoltatore che evidentemente non ha colto quel passaggio. Chiusa la parentesi, andiamo avanti sul tema. Chiedono alcuni ascoltatori, ma qual è il problema? Se Francia e Italia sono contrarie, pongono il veto e la cosa non passa. No, non c'è atmosfera di veto. Non c'è atmosfera di veto perché se è vero che Italia, sconfortata dal Belgio in realtà, che ha il debito PIL in rapporto a prodotto lordo superiore al 100%, la Grecia è quello che ha il debito comunque più alto anche dell'Italia, ma la Grecia, diciamo, in questo periodo non fa molto testo in termini, diciamo, di rapporti di forza politici. Il problema è che a un certo sono tutti d'accordo nel fare del debito, di concentrarci sul debito. Il problema è quanto automatico deve essere l'avvio della procedura, quanto automatico ci deve essere per arrivare alle sanzioni, e soprattutto il sistema di voto, se basterà una maggioranza semplice, come vogliono alcuni governi. La Francia l'ha dichiarato, la ministra francese delle finanze l'ha dichiarato ieri sera, come vogliono che sia sufficiente una maggioranza semplice per bocciare le proposte della Commissione, mentre la Commissione vuole una maggioranza, una bocciatura a maggioranza qualificata, cioè circa 2/3, quindi più difficile da mettere insieme. Si sta discutendo su questi dettagli che sono politicamente e tecnicamente molto importanti, ma che non mi pare mettano in discussione l'impianto. Si potrà lavorare ai margini, però naturalmente posso sbagliarmi, vedremo intanto alla riunione dell'Ecofin informale a fine settimana, giovedì, venerdì, quale sarà grosso modo l'orientamento delle prime discussioni, ecco. Cioè, se ho ben capito, nessuno ha interesse a porre il veto perché il segnale che arriverebbe anche ai mercati sarebbe abbastanza devastante. No. Però dentro si va a trattare, e viva Dio, occorre anche trattare, come sempre c'è la Germania che vuole giocarsi la sua partita in un certo modo, e su questo, diciamo, è poco disponibile a venire a patti, però poi ogni tanto a patti viene anche lei. Un ascoltatore mi chiede, non ti vergogni nemmeno un po' di fare il megafono di questo governo? Poi aggiunge un epiteto, boh, non mi sembra comunque. Megafono con questa voce, un megafono un po' spuntato, dai, mettiamola così. Antonio Pollo Salimbeni, grazie, in collegamento con noi da Bruxelles, il corrispondente di Radio Corriere Sole 24 Ore. Adesso meteo, pubblicità, poi due piccoli graffi sulle spese dei nostri politici, alcuni di voi me li segnalano. La borsa meno 0,25%, è migliorato quindi l'indice nel finale, e poi le tensioni sull'Irlanda, perché in tutto questo ci dimentichiamo che lì si stanno concentrando su Irlanda e Spagna le speculazioni dei mercati, le scommesse di due paesi che potrebbero non tenere. E poi nella seconda ora arriveremo a parlare dell'Expo, perché questo Expo siamo fissati ancora, mancano 20 giorni scarsi all'esame della Commissione Internazionale su Milano, che deve dare il via libera a Milano. Qui mancano ancora i terreni, se qualcuno ha un terreno per fare l'Expo ce lo comunichi. Nel frattempo poi ne parleremo, se ho ben capito, con il presidente della regione Lombardia, Roberto Formigoni. 349-238-6666 per i vostri sms. 17:40 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso veniamo ai mercati finanziari e poi parliamo anche delle tensioni sull'Irlanda e non solo, e poi dell'Expo di Milano. Vedo che alcuni si sono offerti con terreno per l'Expo. Ancora c'è un nuovo record dell'oro, è vero, 1305 dollari all'oncia, non si ferma l'oro, e questa è la notizia di mercato, assieme a un euro a quota 1,3571 e a un petrolio che è appunto sensibile alle prospettive incerte sulla ripresa, continua a viaggiare a 75,8 dollari al barile. E allora la borsa. Allora, meno 0,25% a Milano, meno 0,1% a Parigi, invariata Francoforte, invariata anche Londra. L'America guadagna adesso lo 0,4% e questo ha cambiato un po' il corso dei mercati. Livia Zancaner, agenzia di stampa Radio Colli sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Allora, dicevo, giornata un po' di tensione, molto altalenante, i dubbi sull'Irlanda, adesso ne parleremo, gli spread dell'Italia, poi insomma si sono un po' tranquillizzati i mercati. I titoli migliori oggi si chiamano, da un lato, per quello che riguarda l'S&P MIB, Exor più 1,82, Azimut più 1,7, Finmeccanica più 1,3, Ubibanca più 1%. I titoli peggiori invece si chiamano Buzzi Unice meno 2,7, Fondiaria meno 1,5, Pirelli meno 1,2, come Intesa San Paolo, l'1,1 lo perde Steam Microelectronics, l'1% Unicredito, ma anche l'Ottomatica. Allora, Exor, Azimut e Finmeccanica per iniziare. Sì, allora, per quanto riguarda Exor, allora, le azioni hanno beneficiato delle speculazioni dei giorni scorsi relativi a una possibile quotazione della Ferrari, anche se l'amministratore delegato di Fiat, Sergio Marchionne, ha precisato che al momento non c'è nulla di in programma, e lo stesso Sergio Marchionne, per quanto riguarda possibili offerte su Fiat Industrial, ha precisato ancora che al momento non è stata fatta nessuna offerta da parte di Daimler. Per quanto riguarda Azimut, allora, le azioni sono salite dell'1,67% e per un guadagno del 3,6% nelle ultime tre sedute. Secondo alcuni analisti, la società potrà beneficiare di una ripresa di interesse degli investitori nei fondi comuni italiani dopo i buoni dati pubblicati la scorsa settimana. Infatti la raccolta dei fondi ha mostrato nel secondo trimestre un consuntivo positivo per 13 milioni contro le attese, che indicavano invece un saldo negativo di oltre 4,5 miliardi. Per quanto riguarda Finmeccanica, invece, le azioni hanno beneficiato dell'aggiudicazione di una nuova commessa da 250 milioni di dollari a Singapore tramite la controllata Alenia. Ancora, per quello che riguarda invece i titoli peggiori, sempre dall'S&P MIB, Buzzi Unice meno 2,7, Fondiaria meno 1,5, appunto Pirelli meno 1,2, Intesa 1,2. Oggi in flessione, devo dire, quasi tutti i bancari, la Popolare di Milano meno 0,6%. Su Pirelli però c'è la notizia di Michelin. Sì, infatti il Pirelli ha risentito del calo appunto della concorrente Michelin, che a Parigi ha perso oltre il 10%. La società ha annunciato un aumento di capitale da 1,2 miliardi di euro, un'operazione che servirà per finanziare l'accelerazione dello sviluppo e migliorare la solidità finanziaria. La ricapitalizzazione inizierà giovedì e terminerà poi il prossimo 13 ottobre, e la pressione comunque si è fatta sentire anche sul titolo della Bicocca, appunto, che ha perso l'1,26%. Allora, i migliori in assoluto: Safilo continua a guadagnare più 7,80%, Danone più 5,60%, Saras più 4,5%, Risanamento più 4%, e poi PMS, titolo completamente altalena, penso l'ultima matricola di borsa, l'ultima debuttante, adesso vado a memoria, Patrizia Maria Sorace è il gruppo di comunicazione, oggi più 12,5%. Ma che succede lì? Più 12 un giorno, meno 12 un altro? Sì, allora, in realtà il titolo era salito molto dalla chiusura del 10 settembre, quando aveva annunciato un'operazione, per poi continuare in rialzo fino al 23 settembre e poi ricontinuare a scendere. Ma in realtà bisogna considerare che il titolo non è trattato sul listino principale, ma è trattato sulla Mitalia. E la Mitalia è un mercato in cui praticamente gli scambi sono molto bassi, il retail è praticamente inesistente e le azioni sono in mano più che altro investitori istituzionali che entrano solitamente prima della quotazione o comunque in sede di quotazione, quindi in realtà sono scambi. Su Safilo e Danone invece nessuna novità? Chiedo. Sì, allora, sì, Safilo ha comunicato di aver rinnovato la licenza con Dior fino al 2017. Per quanto riguarda Danone invece non ci sono notizie particolari, il settore ha chiuso sulla parità, il settore alimentare, il titolo ha guadagnato il 5,58%. E poi negativa invece Amplifon, meno 4,83%, Intech meno 4,90%, Irce meno 5,34%. Un ultimo titolo, o meglio, al di là dei bancari, c'è un calo abbastanza singolare per Mediaset, meno 0,80%, perché non legato al mercato, ma proprio a Mediaset, Livia. Sì, in realtà è di ieri la notizia che praticamente Paul Romer, che è il capo dell'ufficio creativo di Endemol, che è del gruppo Mediaset, ha lasciato la società dopo 15 anni, si legge nel comunicato, per seguire altre opportunità. In realtà Paul Romer è stato l'ideatore del Big Brother, quindi del Grande Fratello, insieme al fondatore di Endemol, John Demol, e probabilmente il mercato può aver penalizzato anche il titolo per questo motivo, considerando che il settore media ha perso lo 0,42%, ma ha chiuso in casa nel gruppo Mediaset anche la controllata Telecinco in Spagna. E questo per quello che riguarda Mediaset. Volete sapere delle banche? Le abbiamo dette, insomma, tutte deboli. Il Banco Popolare, è vero, Moody's ha declassato la società questa mattina, alla fine però il calo è stato contenuto perché meno 0,6, Livia. Le azioni avevano iniziato la seduta in deciso calo, poi sono passate in territorio positivo per poi virare sotto la parità con il peggioramento dei listini nel pomeriggio. E allora grazie intanto a Livia Zancanera, Radio Corriere Sole 24 Ore. Dopo il traffico restiamo sui mercati, o meglio le paure nei confronti dell'Irlanda soprattutto, e anche, non devo correggere nulla, anche della Spagna. Oggi la Spagna ha collocato delle obbligazioni, 3 miliardi di roba, non poca roba, e ha dovuto offrire un rendimento più alto, per cui insomma mi dispiace chi dice no al Portogallo, anche il Portogallo, ma insomma in questo momento la preoccupazione si chiama Irlanda, assieme alle prese di posizione delle agenzie di rating, due soprattutto oggi, Standard & Poor's che dice salvare Anglo-Irish Bank costerà ben più dei 35 miliardi già stimati dal governo irlandese, e dall'altro Fitch che dice se Dublino non ci spiega quanto costerà salvare sta banca, noi declassiamo, abbassiamo il voto all'intera Irlanda quanto ad affidabilità. Ne parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri SMS. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, immaginate se noi come italiani dovessimo salvare una banca, e per salvare questa banca dovessimo spendere qualcosa come 350 o 300 miliardi di euro. Non so dove andremo a finire, saremo probabilmente così in uno stato di emergenza totale. 300 miliardi di euro significa praticamente, vado a spanne, 20 manovre finanziarie, 20 anni di manovra finanziaria. Ecco, è quello che sta capitando in Irlanda, perché fate le proporzioni, il PIL irlandese vale un decimo di quello italiano, 160 miliardi di euro, è il PIL irlandese. La banca che deve salvare, che si chiama Anglo-Irish Bank, costa tra i 25 e i 35 miliardi, che possono sembrare, tra virgolette, una cifra non enorme in termini assoluti, ma sono appunto l'equivalente di quello che sarebbero per noi 350 miliardi. Walter Riolfi del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora Walter, tu ne hai scritto spesso dell'Irlanda, tocca anche noi occuparcene oggi, speravamo che fossero notizie più di mercato, invece continuano a peggiorare le cose. Oggi due agenzie di rating si sono mosse e hanno detto l'Irlanda ci fa sapere quanto costa questo salvataggio, oppure noi declassiamo il debito. Aggiungo che l'Irlanda, secondo i dati diffusi dalla BBC, l'esposizione delle banche estere sull'economia irlandese è di 844 miliardi, cioè le banche estere hanno investito in economia irlandese una cifra pari a 5 volte il PIL irlandese. Domanda: è pensabile che l'Irlanda tenga, lo so che è un po' brutale, se deve salvare una banca, cioè come se noi dovessimo tenere i conti in ordine ma dovessimo spendere in una botta sola 350 miliardi di euro? non so quello che sta succedendo, però la cosa paradossale in questi giorni è che davanti a una situazione che sta diventando sempre più grave sui debiti sovrani in Europa e anche sull'economia negli Stati Uniti, i mercati, o meglio i mercati azionari, non reagiscono, praticamente non se ne sono accorti. Oggi lo Stoxx tra l'altro chiude quasi invariato, e dopo una prima caduta iniziale sulle preoccupazioni irlandese risale, segue l'America, e proprio di quello che succede ormai sui debiti sovrani non c'è. E la domanda è allora è questa: perché a maggio era il panico sui debiti di Irlanda, Portogallo, Spagna, Grecia e anche Italia, e adesso non frega niente a nessuno? Allora, i mercati vanno avanti per più che per convinzioni, probabilmente per delle convenzioni che così si creano. Ora, il mercato che guida è la borsa americana per quanto riguarda le azioni. Questa qui sale anche oggi pur in presenza di dati disastrosi sull'economia americana, no? E perché sale? Perché c'è la Fed che con il quantitative easing, cioè l'acquisto di titoli di Stato sul mercato, continua a immettere nel sistema un mucchio di liquidità. Anche oggi a 500-600 miliardi di no, 600 milioni di dollari solo oggi, ma praticamente tutti i giorni sta facendo acquisti. Tutta questa liquidità finisce in parte nella gente che compra i bond, e compra i bond perché cerchi di proteggerti dalle brutte notizie sull'economia o sui debiti sovrani. In parte sull'oro, e oggi fa nuovo record, certo. E anche questo non è un segnale positivo sull'economia, e in parte probabilmente finisce anche sulle azioni. Quindi la gente, dalle cattive investitori, intendiamoci poi bene, sì, quali investitori, perché questi sono trader, sì, non sono investitori a lungo periodo. E questa liquidità finisce per tenere artificialmente sui mercati. Ma una domanda, perché giustamente gli ascoltatori dicono: ma come cavolo ha fatto la Anglo-Irish Bank a beccarsi un buco che vale appunto un quinto un quinto del PIL irlandese? Sarebbe come se una banca da noi avesse un buco da 350 miliardi? Oh, non so, questo non te lo so dire. Sono i problemi ancora del 2007-2008, eccetera. Ecco, ma c'è un'altra cosa che preoccupa gli economisti e non preoccupa i mercati, e questo è gravissimo, perché la crisi dei debiti sovrani sta creando un grosso problema all'economia. Allora, guarda cosa succede in un paese che è relativamente virtuoso come la Francia: scioperi contro le riforme, non vogliono i tagli fiscali, eccetera. Allora, siamo in una situazione in cui bisogna ridurre il debito. Per ridurre il debito gli stati devono tagliare le spese, tagliare la spesa sociale soprattutto, no? Allora, già siamo alle prese con crescite dell'ordine dell'1-1,5% anemiche. Se lo Stato comincia a tagliare addirittura le spese, questa crescita può addirittura vanificarsi, annullarsi. Nel caso perché è emblematico il caso dell'Irlanda? Il PIL settimana scorsa cala dell'1,2% quando tutti si aspettavano una crescita dello 0,5. Questa è una diretta conseguenza di questo processo di riduzione della leva finanziaria, cioè dei debiti. E questa cosa riguarda anche gli Stati Uniti, che di fatto hanno un deficit, un debito PIL del 140%, se noi includiamo Fannie Mae, Freddie Mac. Il ragionamento è: attenzione, perché non sempre puoi chiedere agli Stati, ne abbiamo appena ha parlato con Antonio Polli Sorimbeni per quello che riguarda le richieste della Germania di ridurre deficit debito, ha un effetto virtuoso, anzi può creare un rallentamento nei consumi. Uno ascoltatore dice: dai, continuate a spaventare un po' la gente. Ha ragione lui, l'Irlanda va bene, l'Irlanda sta bene, non c'è nessun problema sull'Irlanda, sta bene anche la Marchesa, che è una madama, adesso però c'è il GR. Poi invece parliamo di una cosa più allegra, ossia dell'Expo di Milano, immaginando che, per dare una buona notizia, potremmo commentare anche il fatto che ci sono i terreni non ci sono, e tra 20 giorni scarsi arriva il giudizio dell'ente internazionale. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisone. Arriveremo tra poco a parlare dell'Expo di Milano, o meglio dei terreni, perché mancano ancora i terreni e il tempo non è scaduto, però si assottiglia, mancano infatti poco meno di 20, il 31 scusate, poco meno di 20 giorni alla, alla data in cui, cioè, il, la BIE, che è l'Ufficio Internazionale delle Esposizioni, dovrà approvare definitivamente il dossier di Milano, il 19 ottobre per la precisione, quindi siamo a 21 giorni. Prima di questo però, visto che molti messaggi arrivano sul tema della stabilità, i rischi irlandesi, i costi enormi per il salvataggio di questa banca, poco fa, che è l'Anglo-Irish Bank, abbiamo fatto un calcolo, e come ripeto, se da noi dovessimo salvare una banca e metterci dentro 350 miliardi di euro. Questa è la proporzione rispetto ai 35 miliardi che mette l'Irlanda, che dovrebbe poter mettere l'Irlanda per questa banca, visto che hanno un PIL che è un decimo del nostro. Dicevo, poco fa la nostra Deborah Rosciani ha intervistato l'ex sottosegretario del Tesoro americano Peter Fisher, ai tempi dell'amministrazione Bush, che per 15 anni è stato membro della Federal Reserve, della Banca Centrale Americana, ed è oggi il Managing Director di BlackRock, praticamente il colosso mondiale negli investimenti, gestisce, pensate, 3.150 miliardi di dollari ed è presente per esempio anche in Unicredit. È un fondo che investe, un fondo colossale, il numero uno se non ricordo male come fondo di investimento. E Deborah Rosciani appunto ha chiesto un commento sulla situazione europea alla luce proprio delle tensioni che si stanno verificando su alcuni debiti di alcuni paesi europei. I think Italy finds itself now in the middle of Europe. Credo che l'Italia si trovi al centro dell'Europa, nel senso che ci sono paesi che sono finanziariamente più deboli e altri che sono più forti. Ecco perché dico che la situazione italiana si colloca in qualche parte nel mezzo. L'Italia ha avuto il vantaggio di avere un sistema bancario più forte e solido ed è giunta nella fase della crisi meno esposta al rischio di una bolla immobiliare come è accaduto altrove. Dall'altro lato però vi è entrata con un livello di debito più elevato. Per quanto riguarda l'Europa nel suo insieme, direi che è quasi una sfida valutarla. Nel senso che anche per noi investitori non è facile farlo, perché ci sono aspetti molto differenti. In particolare il sistema bancario dei vari paesi è molto diverso. Alcuni paesi sono molto dipendenti dal proprio sistema bancario e i governi sono dovuti intervenire in maniera esplicita per supportarlo. Altri paesi hanno avuto problemi con le banche, ma i governi sono intervenuti in maniera meno massiccia. Gli investitori quindi devono stare attenti e domandarsi se un governo sia ancora disposto a fornire tanta liquidità al proprio sistema bancario, oppure se il sistema governativo e politico del paese, stanco di sostenere le proprie banche, decida di non farlo più. Certo, una domanda per Peter Fisher, visto che adesso fa il managing director del più grande fondo di investimenti del mondo, BlackRock, ma per 15 anni è fatto membro della Federal Reserve, quindi la banca centrale americana, ed è stato sottosegretario al tesoro del governo Bush. Una domanda, dicevo, ce l'avremmo anche noi. Lui dov'era? Lui e tanti altri dov'erano quando si sono gettate le basi, le fondamenta per lo scoppio della più grande crisi finanziaria degli ultimi 70 anni? Beh. Sicuramente, come spesso avviene con questi manager, cade in piedi, appunto, infatti ma se lo meriterà tutta. Ha una posizione di rilievo, ben remunerata. I conti, i costi, i cocci di questa crisi li stanno pagando invece anche i paesi europei, i loro cittadini, visto che il debito è nostro. Va bene, cambiamo tema e mi riferisco all'Expo. Quando parliamo di Expo, ormai qualche puntatina l'abbiamo fatta su questi ritardi che sta accumulando l'esposizione internazionale del 2015, quella che dovrebbe ospitare, che ospiterà Milano. Dicevo, il nostro interlocutore è sempre stato Salvatore Caruba, direttore strategia editoriale del gruppo Sole 24 Ore ed è stato anche assessore alla cultura a Milano. Salvatore, buonasera. Buonasera, Sebastiano, buonasera a tutti. Stiamo aspettando di ricevere in collegamento anche il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni. Perché? Perché la vicenda Expo adesso non è tanto sui ritardi in genere, ma è sui terreni. Cioè, la situazione sui terreni, come oggi riportato anche da molti giornali, è di stallo, con uno scontro che non è da poco, perché è proprio sulle modalità di ottenimento di questi terreni. C'è chi, come la Regione Lombardia, avrebbe preferito comprarli, c'è chi li voleva in comodato d'uso, quindi affittarli, c'è poi l'ipotesi terza, più drastica, dell'esproprio, ma in Italia dubito che arriveremo mai all'esproprio. E allora, questa scheda ci ricorda lo stato dell'arte e come si è arrivati a questa situazione paradossale per cui, diciamo, per quello che riguarda la manifestazione del 2015, manca ancora il terreno dove mettere la manifestazione stessa. Milano ha vinto, a Milano Valle 2015, a Milano si farà l'esposizione universale del 2015, si farà, sentite la gioia della sala, sentite la gioia dei delegati. ...910 giorni dopo, l'euforia per la vittoria di Milano su Smirne per l'organizzazione dell'Expo 2015 ha lasciato posto a incertezza e ansia. Non tanto in vista del 2015, ma del più vicino 18 ottobre, quando l'Ufficio Internazionale delle Esposizioni vuole la certezza della disponibilità dei terreni destinati a ospitare l'esposizione. Terreni sui quali si era scatenato uno scontro di poteri. Da un lato la via dell'acquisto caldeggiata dal presidente della Regione Lombardia Formiconi, dall'altro l'ipotesi del comodato d'uso sostenuta dal Comune. In estate poi la provincia, d'accordo con il Comune, aveva elaborato una via intermedia. Invece di ricorrere all'acquisto dei terreni come proposto dalla Regione, che avrebbe comportato una NIUCO pubblica e risorse che Governo, Comune e Provincia hanno dichiarato di non avere, meglio l'acquisto da parte di Fondazione Fiera, proprietaria di 2/3 dell'area, del terzo rimanente di proprietà del gruppo Cabassi. A quel punto la Fondazione, che è ente pubblico, metteva a disposizione di Expo i terreni, ricevendo in cambio diritti di superficie da esercitare dopo il 2015. Ciò per garantire alla Fondazione un ricavo con parte del quale si sarebbero pagati i Cabassi. Invece, colpo di scena. La Regione Lombardia ferma l'accordo, che pare raggiunto tra la Fiera e i Cabassi, con un parere legale che ripropone tre strade. L'accordo dei privati, che però impone ancora una perizia sul valore dei terreni e lascia l'ultima parola alla Regione, ente vigilante rispetto alla Fondazione Fiera, l'acquisto da parte di una nuova società pubblica con i soldi della Regione, infine, terza e ultima strada, l'esproprio. Questa è la situazione in cui siamo arrivati e allora ringrazio per averci raggiunto, oltre a Salvatore Caruba, anche il Presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni. Presidente, buonasera. Buonasera a lei. Abbiamo un minuto di informazioni sul traffico e poi le domande che ho per lei, 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, Presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni, c'è questo 1.000.000 di metri quadrati per un quarto di proprietà, un quarto, un terzo, non ho ben capito, di proprietà della famiglia Cabassi. Domanda, qui siamo ancora allo stallo, mancano 20 giorni, un po' più di 20 giorni, 19 ottobre l'organismo internazionale esaminerà Milano e vuole vedere i terreni. Le chiedo, se la Fiera e il Sindaco dicono che l'ipotesi di acquisto è troppo cara, il Governo non ha i soldi, la Moratti ha anche detto che su questo c'era l'accordo con il ministro Tremonti, perché voi insistete per l'acquisto? Ma innanzitutto non siamo noi a insistere per l'acquisto, abbiamo doverosamente chiesto dei pareri legali a due dei massimi luminari di questa scienza, che ci hanno risposto in maniera ampia e chiara, ponendo i paletti per cui tutte e tre le soluzioni che prima citavate nel servizio rimangono in vita, ma all'interno di alcuni limiti molto stretti. Sono tre sentieri, secondo le tre diverse ipotesi, irti di difficoltà, ma tutti e tre percorribili. Non è certamente colpa nostra se l'ipotesi sui terreni, di cui Regione Lombardia ha cominciato a interessarsi soltanto nello scorso mese di maggio, perché prima era di competenza di altri, si è rivelata così carica di insidie. D'altra parte basti pensare che qui siamo in presenza di aree possedute da privati su cui il pubblico farà un investimento colossale di 1 miliardo di euro, determinando una valorizzazione enorme delle aree stesse. È evidente che l'investimento pubblico deve andare a vantaggio del pubblico, non può andare a vantaggio del privato, il che sarebbe qualcosa di indebito. Quindi non è una lotta politica come ancora molta stampa si affanna a descrivere. No, non lo è. Non sarà politica, ma sarà personale, insomma, tra lei e la Moratti. No, giuridica. No. Anche questo voglio smentirlo, nel senso che alla luce di questi pareri giuridici, noi, gli enti, regione, provincia, comune, sappiamo di avere questi tre sentieri da percorrere e stiamo valutando, aiutati dai nostri tecnici, quale sia il sentiero preferibile, sapendo che ci sono dei paletti, ma in tutte e tre le ipotesi sono ancora aperte davanti a noi. Quindi è un problema di natura tecnica, i nostri tecnici a valle dei pareri giuridici stanno fornendoci ulteriori pareri, dopodiché prenderemo la decisione e voglio garantire che i tempi saranno perfettamente rispettati. Ripeto, ci siamo trovati davanti a difficoltà enormemente più grandi di quelle che qualcuno in un primo momento pensava. Per far capire a tutti, Presidente, a parte il fatto che insomma si poteva arrivare anche un po' prima, non lo dico a lei, ma insomma in generale, se bisogna mettere d'accordo provincia, regione, comune, ente fiera, forse anche arrivare proprio perdoni, a lui. Mi faccio fare la domanda. Non si tratta di mettere d'accordo questi, si tratta di rispettare la legge in un caso molto delicato dove un investimento pubblico di 1 miliardo di euro non può andare a vantaggio dei privati. I privati hanno il diritto di essere remunerati nella misura congrua, non devono ricevere un euro in più e un euro in meno. I privati giustamente difendono il loro interesse, ma l'ente pubblico deve essere estremamente avveduto per non dare dei vantaggi illeciti. L'esproprio è un'opzione possibile? Sì, gli avvocati la reputano possibile e io ho sempre sostenuto che è un'ipotesi possibile. È una delle tre strade che abbiamo davanti. Per cui, mi faccia capire, nella malaugurata ipotesi che non si riesca a trovare un accordo in questo caso con i privati, voi per non perdere l'Expo, per non fare una figuraccia all'Italia, alla Lombardia di fronte alla Commissione Internazionale, potreste arrivare anche all'esproprio? Ma in questo caso l'esproprio sarebbe fatto da un'altra autorità, non dalla regione, dal sindaco o dal commissario, ma mi permette di sottolineare che non ci sarebbe nessuno scandalo da menare, l'esproprio è la via normale seguita in questi casi. Qui si è ritenuto di non seguirla all'inizio della vicenda, ma è una scelta che da sempre è nelle disponibilità dell'ente pubblico. Adesso, d'altra parte, voglio anche ricordare che il Consiglio regionale che ha esaminato la vicenda nel mese di luglio ha votato praticamente all'unanimità una mozione in cui risottolineava che l'esproprio è una delle scelte a disposizione dell'ente pubblico. All'unanimità, destra, sinistra, centrodestra, centrosinistra, siamo stati tutti d'accordo perché così dice la legge. Allora, Salvatore Carubo, com'è che si è arrivati? Io però sono un po' semplice forse, ma com'è? Formigoni dice, beh, guardate che noi di questa cosa ci siamo occupati, il primo consiglio regionale è stato quello di luglio, da poco, ma com'è che si è arrivati a non avere i terreni? Fammi capire, se n'è andato un commissario stanca, questo Expo speriamo che vada meglio nei prossimi anni, dai, mettiamolo in positivo, perché ma com'è che si è arrivati a praticamente a 20 giorni dall'esame della Commissione Internazionale senza ancora i terreni per metterci l'Expo sopra? Ma questa è una domanda che si fanno tutti, perché il presidente Formigoni non si può mettere in dubbio la sua parola quando dice che qui non è un caso di scontro politico, non si può che prendere di questa sua affermazione, però certo stupisce il fatto che appunto dopo 3 anni ancora una città come Milano e le istituzioni lombarde non siano riusciti a trovare un'intesa perché bastava semplicemente probabilmente copiare quello che si fa nelle altre città. È vero che abbiamo sistemi amministrativi diversi, però è curioso che in una città come Milano, di fronte a un evento che alla fine non è nulla di eccezionale rispetto a quanto hanno fatto altre città, non si sia trovata un'intesa a tempo debito anche con i privati, vorrei dire, non soltanto fra i soggetti istituzionali, ma anche con i privati, perché queste aree venissero messe a disposizione, tanto che adesso che si entra in campagna elettorale si sentono anche proposte fantasiose di trasferire l'Expo in collocazioni veramente stravaganti. Sì, oggi ho visto Boeri, candidato del PD, suggerire di portare l'Expo all'Orto Mercato, la Moratti gli ha risposto, insomma, guarda che l'abbiamo vinto e l'area sito non può essere che quella. Vabbè, al di là della campagna elettorale, Presidente Formigoni, me lo dice di chi è la colpa? Io, massima buona fede lei, ma come mai si è arrivati? Secondo lei, si sarà fatto un'idea, anche come cittadino lombardo, del perché si è arrivati a luglio, quando voi ne avete preso, l'avete preso in esame, ancora non avere i terreni? Quando avremo risolto la vicenda risponderò a questa sua domanda. Torna in diretta. In questo momento mi lasci lavorare per risolvere la vicenda. Però poi torna in diretta e mi dice... Insomma, lo diremo no, a tutti. Perché siamo in diretta nazionale. Allora, un'ultima domanda per lei, perché non posso farmi sfuggire l'occasione di farla partecipare al nostro sondaggio su chi dovrebbe essere il prossimo ministro allo sviluppo economico. Allora, Presidente Formigoni, stiamo conducendo questo sondaggio ormai da settimane, sono 147 giorni da cui manca il Ministro dello Sviluppo Economico. Lei chi candida? Chi propone? Il Ministro dello Sviluppo Economico non manca, il Presidente del Consiglio ha assunto un interim, quindi in questo momento no, è importante dire agli italiani siamo che d'accordo. Non c'è una vacanza, c'è invece un interim che il Presidente del Consiglio sta esercitando. E però è il Presidente del Consiglio che sceglie il Ministro, lo propone al Presidente della Repubblica, quindi davanti al Presidente Berlusconi e al Presidente Napolitano permettete che il Presidente Formigoni si tiri indietro. Ma lei lo farebbe? Lei lo farebbe? In questo momento sono Presidente a Lombardia, i lombardi mi hanno riconfermato con un vasto consenso 4 mesi fa, no, in questo momento non posso farlo. Comunque grazie per la promessa, grazie che a tornerà voi a dirci quando la vicenda sarà finita, e noi ci auguriamo che venga chiusa assolutamente in maniera positiva per Milano, per la Lombardia e per l'Italia. Come si è arrivati a questo ritardo? Grazie al Presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni. Grazie a voi per l'invito. Salvatore Carubba, verrai anche tu a quel punto a sentire come mai si è arrivati a questo ritardo. Tu un'idea ce l'hai, secondo me, però. Questa tua trasmissione sta diventando un giallo, perché appunto si trascina di volta in volta e ogni volta gli interrogativi crescono. No, io ritengo molto preoccupante questa prospettiva dell'esproprio, non perché essa non sia corretta o democratica, ma perché se davvero si percorresse quella strada, l'Expo si fa nelle sale del Palazzo di Giustizia in corso di Porta Vittoria, insomma, dobbiamo saperlo subito. Certo, anche perché l'esproprio poi prevede tutto un iter giudiziari, ricorsi, per cui possiamo dire addio all'Expo. Comunque, vedo molti messaggi di, immagino, non lombardi che dicono ecco il primato dei lombardi, non mettiamola sempre a livello regionale di competizione nord-sud, c'è già chi lo fa in maniera impropria. Da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.